Conoscendo l'opera di una rara perla italiana quale Maria Montessori, scienziata, filosofa, pedagoga e attivista per i diritti femminili, italiana cacciata dall'Italia, ci si chiede davvero quale sia lo scopo di continuare a propinare a studentesse e studenti ancora oggi lo studio di Pascoli e Carducci o della fisica classica, ampiamente sconfessata da quella quantistica, quando basterebbero pochi paragrafi di qualcuno degli straordinari lavori montessoriani a cambiare completamente già dalla scuola la nozione di noi stessi, a comprendere l'origine di debolezze e paure e a darci la possibilità di trasmutarle per il bene nostro e del pianeta. Maria Montessori nacque nel 1870 vicino ad Ancona. Dopo la laurea in medicina, che ottenne a prezzo di enormi sacrifici a causa dell'opposizione che le veniva manifestata dall'ambiente universitario, le furono affidati casi di bambini ritardati. E fu proprio quello che le ci voleva perché, osservandoli, cominciò a comprendere l'origine del loro rifiuto della vita e ad elaborare quello straordinario sistema educativo per il quale è divenuta famosa e osannata molto più nel resto del mondo che nel nostro paese, basato sulla libertà e la valorizzazione dell'essere umano entro i 3 anni di vita. Secondo Maria Montessori è proprio quello il periodo della vita in cui si manifesta pienamente l'onnipotenza dell'individuo, in cui ogni conquista è possibile, viene ottenuta se forniti dei mezzi adeguati a sostenerla. Ebbe un figlio fuori dal matrimonio che le fu tolto, sommo scandalo, e che poté ricongiungersi con una madre già acclamata come educatrice a livello mondiale solamente a 15 anni. Aprì la prima casa dei bambini in un quartiere operaio di Roma ed ebbe un successo tale col suo metodo che in breve tempo ne furono aperte molte altre. Fu dapprima strumentalizzata dal regime fascista per dare lustro al paese, ma quando cominciò a ribellarsi alle modifiche che il regime le chiedeva di apportare al suo programma e pretese che venisse tolta l'intestazione Montessori dalle scuole che non lo seguivano alla lettera, cominciò ad essere perseguitata e dovette scappare dall'Italia. Si rifugiò in Olanda, dove ebbe la sua residenza fino alla fine dei suoi giorni. Viaggiò e tenne conferenze in tutto il mondo e diede il meglio di sé durante l'internato di guerra che, già settantenne, dovette subire in India. Questa incredibile donna, anziché scoraggiarsi, si vide offrire una nuova opportunità di studio e si mise a insegnare ai bambini nativi, di cui vedete la foto in sovraimpressione, approfondendo e ampliando i suoi studi, che alla fine della sua vita avevano veramente raggiunto livelli tali di sottigliezza, comprendendo non solo la parte scientifica e biologica, ma anche psichica, spirituale, metafisica, da fare di lei una delle più grandi maestre di sempre. Morì ultraottantenne, dopo aver dedicato l'intera sua esistenza alla conoscenza, all'evoluzione umana e alla pace, in Olanda, dove ha tutt'oggi sede l'Associazione Montessori Internazionale. Fu candidata 3 volte al Nobel per la pace, senza però che le sia mai stato assegnato. La Scuola delle Donne è onorata di presentare i testi di alcune sue conferenze che dall'educazione dell'infanzia giungono alla trasmutazione dell'umanità e quindi del pianeta in quella che lei chiama l'educazione cosmica, raccolte in 2 volumetti, Educazione per un mondo nuovo e Educazione e pace. Da Devana, figlia di Liliana, buon ascolto.